programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Allegro e frizzante come sempre, non ci sono più le mezze stagioni, però diciamo con qualche indignazione, come già abbiamo avuto in tante altre puntate, perché tra pochissimo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi dirò con un suggerimento così musicale di cosa parliamo oggi. È una puntata questa speciale, monografica, su un tema che è molto, diciamo, sulla cresta dell'onda, se così possiamo dire, di un argomento del genere da molti mesi, forse un anno e qualcosa. In realtà è un tema di cui si è parlato spesso negli anni, ma sempre rimandato, sempre sottovalutato, a volte ridicolarizzato. Si è parlato spesso di demagogia, ma insomma mai è diventato così pressante, così urgente, così bisognoso di essere risolto, diciamo, come negli ultimi tempi. Ma vi do giusto un suggerimento. Viva i soldi! Prendi, spendi, spendi, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi che nelle tasche ti fanno din din din. Oh, soldi, soldi, soldi, tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! E ci sono in particolare alcuni che stanno a piedi caldi, non soltanto i ricconi, i miliardari, eccetera, eccetera, ma c'è la cosiddetta casta, poi sveleremo tra poco chi sono gli ospiti, gli opinionisti estemporanei, come li chiamo sempre, non ci sono più le mezze stagioni di oggi, di questa puntata. C'è uno in particolare che con un altro suo collega ha, diciamo, battezzato in questo modo, e da lì è diventato un termine che, come dicevo, negli ultimi mesi si continua a ripetere. Molte sono le parole legate a questo tema, i costi della politica, no? Quindi la casta, le indennità, i vitalizi, sono tutti termini con cui ci siamo abituati ad avere a che fare negli ultimi tempi, che sono diventati ai più piuttosto odiosi. Diciamo che il malcontento è montato sempre di più fino a sfociare, diciamo, in una richiesta costante di abbassarli, questi costi della politica. Insomma, per parlare di questo argomento, signore e signori, oggi gli ospiti sono... Renato Mannheimer. Caro Renato. Salve a tutti gli ascoltatori. Salve a te, Renato Mannheimer. Anche lui non ha bisogno di presentazione. Nessuno degli ospiti di oggi, Renato Mannheimer, è forse il più noto, anzi lo è, il più grande sondaggista italiano, viso notissimo di Porta a Porta, sociologo presso l'ISPO, che ci racconterà un po' qualche dato anche proprio del malcontento, di come le persone vedono a questo punto la casta, la classe politica e insomma, altri aspetti legati appunto all'umore e al malumore soprattutto degli ultimi tempi. C'è Cesare Salvi. Buonasera. Benvenuto Cesare Salvi. Grazie. Ex parlamentare, professore di diritto civile all'Università di Perugia, aveva scritto forse tra i primi insieme a Massimo Villone il libro I costi della democrazia, quindi questo, siamo in pieno tema. E poi c'è Sergio Rizzo. Sergio. Eccoci qua. Sergio Rizzo, giornalista, firma prestigiosa del Corriere della Sera, che insieme a Gian Antonio Stella ha scritto una serie di libri, veramente una saga sui costi della politica. La prima è stata proprio il primo libro dal titolo La casta, che ha avuto, Sergio, un successo incredibile, e di lì questo torrente, questo fiume in piena non si è più fermato. Hanno scritto vari altri libri fino all'ultimo, Licenziate i padri eterni, pubblicato da Rizzoli, dove accumulano dati su dati. E diciamo che Sergio Rizzo, quando scrive un articolo, quello che fa venire proprio un travaso di bile, ma in senso positivo. Michele Ainis lo saluteremo tra pochissimo, costituzionalista e giornalista anche lui del Corriere della Sera, perché è imbottigliato nel traffico, come spesso succede nelle grandi città, e non solo. Piero Angela. Buonasera. Piero Angela, anche Piero, chi non lo conosce, fa parte del nostro bagaglio culturale, collettivo, televisivo. Piero, come presentarti? Forse il più grande divulgatore della storia d'Italia. Piero. Faccio solo il mio mestiere. Autore di innumerevoli programmi TV, dalla scienza, la natura, la storia, l'economia, insomma un po' di tutto. E la cosa curiosa è che ultimamente ha scritto un libro pubblicato da Mondadori che si intitola A cosa serve la politica? Devo dire che molti se lo chiedono negli ultimi tempi. Inizierei da Renato Mannheimer, che ci deve lasciare tra poco. Renato, che dati ci offri? Anche per esempio il polso della popolazione. Sappiamo tutti, no, che c'è un altissimo grado di scontento. momento. Forse siamo arrivati proprio al limite, qualcosa si sta facendo, anche se qualcuno dice si poteva fare di più per i tagli ai costi della qualcosa politica. Qualcosa si sta facendo, e questo è il tema su cui, paradossalmente o no, ne discuteremo, c'è più attesa. Tra gli interventi del governo, che pure alcuni giudicano troppo limitati in relazione ai tagli dei costi della politica, quello appunto relativo ai costi della politica, per esempio quello relativo alle province, è stato praticamente il più plaudito di tutti. La gente, praticamente il più plaudito, è alla pari con le tassazioni lì della tassa sul lusso. La gente ormai ha visto questa cosa dei tagli alla politica come una cosa da fare, si rende conto che forse, ma qui Rizzo ha più dati, la cosa non è completamente risolutiva del nostro deficit pubblico, ma vuole dei tagli alla politica come aspetto simbolico, come esempio che la cosiddetta casta deve dare nel momento in cui chiede i tagli ai cittadini. Devo dire che sul piano dei fenomeni sociali questo è diventato proprio un fenomeno di massa. In tutte le nostre interviste su che cosa deve fare il governo, la prima cosa che i cittadini, e non era così una volta, che i cittadini ci dicono è devono tagliarsi loro con espressioni più o meno colorite. Una volta si badava di più all'economia, all'occupazione, che rimane ancora uno dei problemi principali che il governo deve risolvere, ma questo dei tagli alla politica sta diventando nelle interviste il refrain quasi più ripetuto. Quindi il primo in classifica, diciamo, ma Renato Mannheimer è trasversale, sono più quelli di destra, più quelli di sinistra, più le donne, più gli uomini, com'è questa richiesta? No, è trasversale nel senso che viene da parte di tutti. È molto molto molto un po' più frequente tra quello di sinistra, ma anche tra quelli di destra è molto forte, naturalmente ciascuno pensa ai tagli più diversi. È molto forte tra i giovani che si sono trovati un sistema di governo, un sistema politico molto costoso e dicono non lo abbiamo creato noi. Renato, ma tra le varie voci, no, si è parlato appunto dei termini che ormai sono molto diffusi nel linguaggio quotidiano, da casta, indennità, vitalizi, privilegi, sprechi, auto blu, aerei blu, parentopoli, insomma, qual è diciamo, il tipo di privilegio, anche i menù di lusso, no, del Senato, del Parlamento, qual è il più odiato di questi? Allora, la verità è che la gente non sa misurare bene i costi della politica, come invece Stella e Rizzo hanno documentato così bene nelle varie cose minute. Molti di questi aspetti ci sfuggono. Quello che colpisce la gente più di tutto sono i privilegi che i politici si attribuiscono, e allora non solo l'auto blu, ma il passare con la sirena o il lampeggiante, e al tempo stesso il ristorante che costa poco, e al tempo stesso i viaggi gratuiti. La cosa interessante è che la gente vede con irritazione questi privilegi, perché, sostiene la gente, i politici non fanno quello che devono fare. Come dire, se ci trovassimo di fronte a un sistema funzionante, con i servizi pubblici che funzionano, con una pressione fiscale accettabile, probabilmente la gente accetterebbe anche questi privilegi, ma di fronte a una totale inefficienza del sistema politico, se fossimo in un'azienda alcuni dei dirigenti politici sarebbero licenziati per inefficienza o inettitudine, la gente si ribella, perché si devono conservare i privilegi? Allora la gente è colpita molto dai privilegi più visibili, poi a forza di parlarne ha capito che è tutto il sistema a costare troppo. C'è l'idea che tanti impiegati pubblici, per esempio quelli della regione, non lavorino. Sì. Non è vero, noi sappiamo che alcuni lavorano tantissimo, ma che lì ci sono molte inefficienze. Insomma, c'è un'idea di inefficienza generale e colpiscono le cose più visibili. Renato Mannheimer, io ti ringrazio moltissimo per questo quadro così esauriente. Volevi aggiungere qualcosa? Bene. Fate bene a fare questa trasmissione e speriamo che serva. Grazie Renato, grazie Renato Mannheimer. Alla prossima volta, ai prossimi sondaggi, anche nelle trasmissioni cui partecipa sempre Renato. Cesare Salvi, so che anche tu sei impegnato, poi ci racconterà anche Sergio Rizzo, appunto, come diceva Renato Mannheimer, lui insieme a Gianantonio Stella hanno i dati accumulati in anni e anni, poi capiremo appunto se veramente qualcosa sta cambiando o no, insomma, con l'ultima manovra. Cesare Salvi, quindi dicevamo, i costi della democrazia, questo libro del 2007, se non sbaglio. Sì, scrissi questo libro con Massimo Villone dopo che constatammo alcuni episodi francamente aberranti che riguardavano tutto il campo, centrodestra, centrosinistra e così via. E allora eravamo parlamentari e formulammo anche delle proposte per una riduzione drastica dei costi della politica, che ancora è possibile se non ci si limita alla questione dei parlamentari, non mi dirò fra un momento. E purtroppo la questione non fu capita dallo stesso Prodi, che avrebbe, come gli chiedemmo, avrebbe potuto intestarsela. Il problema è distinguere fra ciò che è necessario per il funzionamento della democrazia, che certamente richiede anche, diciamo, dei costi pubblici, come è del tutto ovvio, e ciò che invece costituisce spreco, privilegio, che andrebbe tagliato in modo drastico, in modo molto netto. Sarebbe sufficiente tornare alla Costituzione, parliamo della questione dei parlamentari, c'è una norma costituzionale che dice che i parlamentari hanno diritto a un'indennità fissata per legge. La legge fu fatta nel 65 e prevedeva l'equiparazione, o meglio il tetto, con la retribuzione del Presidente della Corte di Cassazione. Una norma chiara, semplice, se si fosse applicata questa non ci sarebbero tanti problemi. Che cosa è successo? Che accanto a questa indennità prevista dalla legge si sono aggiunte tutta una serie di voci accessorie sotto forma di rimborsi spese, di diarie, di portaborse, di spese telefoniche, per cui oggi la maggior parte degli emolumenti dei parlamentari in realtà non è nell'indennità, anche perciò sorgono tutti questi problemi che la gente giustamente non capisce quando si dice chi deve intervenire su questo. L'importante è che si intervenga per dare un segnale. Qualche cosa pare che si stia muovendo, speriamo bene, ma sbaglieremo a limitarci solo a questo discorso. Ci sono altri costi e sprechi sui quali occorre intervenire, perché la carta non è fatta soltanto di parlamentari. Faccio qualche esempio? Per esempio ci sono tutta una serie di società miste, di consulenze, di esperti e così via, questo soprattutto a livello regionale e locale, ma anche a livello centrale, che troppo spesso non servono a niente, che non rientrano nei bilanci pubblici, nelle voci esplicite, anche se poi i costi sono a carico della collettività. Ci sono circa 300.000 persone in Italia, diciamo, che sono retribuite dalla politica per incarichi non politici. Qui bisognerebbe intervenire in modo drastico. Un altro principio che si dovrebbe introdurre, secondo me, è che le retribuzioni a titolo pubblico non possano essere più di una. Mentre oggi abbiamo tutta una serie di cumuli di pensioni, di indennità, di retribuzioni e così via. O ancora la legge sul finanziamento dei partiti, certo, che continua a essere chiamata ipocritamente rimborso di spese elettorali, eccessivo nel suo ammontare e soprattutto non ha nessuna trasparenza e nessuna legislazione attuativa come vorrebbe la Costituzione per assicurare la democrazia della vita dei partiti. Quindi c'è il problema che colpisce di più l'opinione pubblica ed è giusto dei privilegi e delle retribuzioni dei parlamentari e bisogna intervenire, ma ci sarebbe molto e c'è molto più da fare per una riforma della politica, perché non è soltanto un problema di sprechi e di costi, che pure c'è, perché si può arrivare anche a qualche miliardo di risparmio, ma c'è un problema di un decadimento della politica in questo modo, no? Sempre meno legata a ideali e valori e sempre più a questo sistema ramificato di potere. Quindi io adesso l'inizio non è stato brillantissimo del governo Monti a questo riguardo, perché hanno fatto un po' di pasticci, poi hanno qualche problema anche loro, tra di loro, no? Al loro interno, di conflitti di interesse, eccetera, però io penso che non si possa attendere oltre per una riforma complessiva della politica. Preferisco chiamarla così, che colpisca appunto questi costi, questi privilegi, questi sprechi eccessivi, faccia risparmiare e cerchi di ricostruire un rapporto di fiducia fra i cittadini e la politica, perché vedete i partiti oggi sono impopolarissimi, ma soprattutto il rischio qual è? Che poi nel Parlamento che venga individuato il bersaglio della protesta, mentre l'istituzione parlamentare è importante per un sistema democratico. Bene, Cesare Salvi, quindi diciamo il lavoro è tantissimo in realtà, molto più ampio di quello che si può individuare appunto negli ultimi tempi, di quello che è diventato il bersaglio, la questione è molto più complessa di quello che sembra, insomma l'importante è, come si diceva, cominciare almeno da qualche parte. Grazie Cesare Salvi. Grazie a voi e buonasera a tutti. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià. e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Soldi, soldi, ovvero Papa Braschi, ti danno donne e whisky, salute, figli maschi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Prendi! Proseguiamo allora questa puntata speciale, sempre Roberta Giordano con voi e i miei ospiti tanti oggi per parlare, come abbiamo detto, dei costi della politica, un argomento estremamente in voga. Ci spiegava prima Cesare Salvi, ex parlamentare e professore di diritto civile all'Università di Perugia, che in realtà l'argomento è molto più ampio, però bisogna cominciare pur da qualche parte. Abbiamo salutato anche Renato Mannheimer e a questo punto vorrei, Sergio Rizzo, chiedere a te di darci, diciamo, un quadro di massima sintetico di una serie di dati, no? Dei tanti che avete raccolto dalla casta in poi fino all'ultimo libro licenziato ai Padri Eterni, tanto per far, diciamo, per rinfrescare un po' la memoria. Ma, per esempio, io vedevo su una sintesi ultimamente sui giornali, no? Tanto per far arrabbiare ancora un po', ma per rendere ovviamente più consapevoli, questo è il concetto. La Camera dei Deputati italiani, 9.000 euro più i collaboratori, viaggi gratis e superpensioni, 9.000 euro al mese, poi netti ci darai tu più o meno quanti sono. L'Assemblée Nationale francese, invece, che appunto sarebbe la Camera francese, 7.000 lordi e il letto in ufficio hanno loro, quindi non pagate appartamenti, alberghi o cose varie o trasferimenti, perché lì devono avere il loro letto. Niente liquidazione a fine mandato, mentre per gli italiani, se non sbaglio, poi ci correggerà Sergio Rizzo, sono oltre 40.000 euro, se non sbaglio. E poi invece al Bundestag, quindi la Camera tedesca, dopo l'uscita 18 mesi di paga, la rendita più alta è 1.900 euro al mese. Per quanto riguarda Londra, invece, versano contributi previdenziali, ma per 5 anni di mandato ricevono al massimo, in Gran Bretagna, 794 euro di vitalizio. Insomma, una bella differenza, Sergio. Ma io però inviterei a non soffermarsi esclusivamente sul Parlamento. Il Parlamento, come diceva, ragione, sì, Salvi. Io quello che ha detto Salvi prima lo condivido al 100%. E ha ragione lui. È vero che la Camera dei Deputati italiana costa il doppio della Camera inglese, pur avendo lo stesso numero di parlamentari. È vero che il Senato della Repubblica costa infinitamente più del Senato spagnolo. È vero che un parlamentare italiano ha una indennità nettamente superiore ancora oggi alla media europea. È vero che il parlamentare italiano, pur con la riforma del vitalizio, del senso contributivo, sarà sempre un privilegiato perché alla fine della sua carriera lavorativa, diciamo così, prenderà due pensioni, la pensione da magistrato se fa il magistrato, da insegnante se fa l'insegnante, da commerciante se fa il commerciante e il vitalizio. È vero che ci sono una quantità di privilegi, secondo me ingiustificabili e anche un po' furbetti, tipo il famoso contributo per il portaborse, che molti parlamentari si mettono direttamente in tasca perché non hanno il portaborse. È vero che ci sono anche delle piccole prerogative che, insomma, di cui potrebbero fare bene a meno, no? Per esempio le famose diarie che non si sa come sono calcolate, il fatto che in commissione spesso non ci vanno mai, però poi alla fine vanno solo a votare e si prendono lo stesso. Ecco, mi pare che adesso abbiano deciso anche di eliminare questa diaria benedetta che per chi è assente è assurdo, no? Che uno prenda la diaria assente. Però qui ci sono, secondo me, due aspetti che vanno considerati. Il primo è la qualità del lavoro del parlamentare. Cioè, l'Italia, perché noi oggi ci interessiamo così tanto e siamo così arrabbiati quando sentiamo queste cifre, gli stipendi, eccetera? Perché non ce lo siamo mai chiesto invece prima? Cioè, nessuno si chiedeva quanto guadagnasse Aldo Moro, no? Per fare un caso. Lavoravano meglio? Ma no, ma era un'altra classe politica, era una classe politica che comunque sia, quantomeno dava la sensazione di affrontare i problemi e cercare di risolverli, no? Noi abbiamo purtroppo una classe politica che è, come l'ha definita il professor Antonio Merlo della Penn University, è una classe politica che assomiglia molto a una mediocrasi, no? Cioè il livello culturale, il livello professionale e diciamolo pure anche il livello di capacità politica è drammaticamente crollato. Attenzione, però questo diciamo parallelamente al crollo della qualità della classe dirigente in generale, perché non è che si può isolare soltanto il ragionamento alla politica se vogliamo fare un discorso serio. E questo è il primo aspetto, quindi l'aspetto che riguarda appunto la scarsa produttività e la qualità del lavoro politico. Diciamo che non è un caso che sia stato chiamato Mario Monti, no, a risolvere un problema che la politica pura non riusciva a risolvere, a affrontare. Poi c'è l'aspetto che sottolineava bene Salvi che riguarda tutto il resto, le regioni. Vogliamo parlarne delle regioni? Ecco, tra pochissimo, Sergio, tra pochissimo parliamo anche delle regioni. Intanto ti sentiamo piuttosto male, ma sentiamo chiaramente i tuoi concetti, i tuoi contenuti, che naturalmente illuminano sempre ulteriormente. Poi vediamo se è possibile richiamarti su quel numero. Intanto vorrei passare a Michele Ainis, dicevamo costituzionalista, editorialista del Corriere della Sera e docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma 3. Ha scritto molti saggi anche Michele. Senti, io dicevamo negli ultimi giorni insomma che ci sarà un ritocco alle pensioni anche dei parlamentari, nel senso che si passerà al contributivo per gli onorevoli e l'età salirà invece che a 50 anni, a cui potevano prendere vitalizio, a 60 anni e a 65 per chi ha una sola legislatura alle spalle. Però c'era se lo vado di nuovo a recuperare, se non sbaglio, il questore della Camera, Antonio Mazzocchi, del PDL, che aveva detto tempo fa, nei giorni scorsi, attenzione che c'è il rischio che i deputati possano far causa, a parte che secondo me perderebbero completamente la faccia, secondo lui in ogni caso potrebbero vincere. Che ne pensi da costituzionalista? Perché c'è una questione di tutela dei diritti acquisiti che Infatti. Riguarda chi è già in pensione, però questo tipo di diritti reagisce alla situazione economica complessiva, vale per i diritti sociali come il diritto alla salute o il diritto all'istruzione. Sarebbe bello avere gratis fino all'università, ma non ci si riesce. Io credo che, sono molto d'accordo con quello che ho sentito dire sia a Sergio Rizzo che a Cesare Salvi, stiamo attenti a non gettare via il bambino con l'acqua sporca. Sì, perché è evidente che una istituzione parlamentare è fondamentale in un sistema democratico. Allora, perché questo malanimo e queste tossine che circolano nel rapporto tra le istituzioni e i cittadini? Intanto c'è una questione di eguaglianza. In tempi in cui si fanno delle manovre economiche lacrime e sangue e tutti devono pagare, si vuole che quel tutti sia riguardi proprio tutti. Quindi è una questione di equità, no? Quindi in questo. Di equità e di eguaglianza, perché io vorrei anche sottolineare, l'OSCE ci ha appena raccontato che l'1% della popolazione italiana detiene il 10% del reddito nazionale. Era questa quota del 7% 30 anni fa, cioè le due lame della forbice tendono a divaricarsi in Italia più che altrove, e questo non può non allevare dei sentimenti di non di ribellione in generale verso chi si trova a torto a ragione, insomma senza troppi meriti, perché poi ci abbiamo anche una classe politica selezionata con la nomina da parte dei segretari di partito, dei leader, come dicevamo prima. No? Ecco. Quindi un po' c'è questo aspetto. Per altro verso, bisogna distinguere l'uso dall'abuso. Nelle questioni giuridiche la quantità è fondamentale, cioè se io vado in una spiaggia e prendo due granelli di sabbia e me li metto in tasca come souvenir, non ho commesso un reato, ma se ci vado con un camion e comincio a spalare la sabbia, sì. Allora è la stessa cosa, cioè l'indennità, l'articolo 69 della Costituzione che parla della indennità stabilita per legge per i parlamentari, e poi la stessa Costituzione parla dell'assegno del Presidente della Repubblica, insomma la retribuzione della carica pubblica risponde a un principio democratico in senso ampio, perché altrimenti soltanto dei ricchi pensionati potrebbero per un certo tempo della loro vita fare quel mestiere. Ed ogni giorno tutti amano. idraulico al barbiere, muratore, giardiniere. Passano gli anni ad aspettare di pigliare la pensione, non dover più lavorare. Ecco, infatti a questo proposito, in questa puntata speciale monografica di Non ci sono più le mezze stagioni, sempre Roberta Giordano con voi, stiamo parlando dei costi della politica. A proposito di pensioni, ci sono molti ascoltatori e ascoltatrici sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni che insomma ne hanno dette un po'. Questo per riconfermare, dicevamo, il malessere, il malcontento, il senso di ingiustizia, il bisogno di uguaglianza di cui abbiamo parlato finora rispetto appunto ai costi della politica, ai costi della casta. Piero Angela, prima diceva Michele Ainis, come hanno ripetuto anche gli altri ospiti, Mannheimer, Cesare Salvi, Sergio Rizzo, non bisogna però buttare, attenzione, il bambino con l'acqua sporca, perché la politica servirà pure a qualcosa. Infatti diversi ascoltatori e anche gente comune, no, si chiede, uno può dire un po' banalmente, demagogicamente, insomma, che serve la politica, no? Se solo si riempiono di privilegi, spesso sono magari arroganti, soffrono di un certo livello di ingordigia, anche se dicevamo qualcosa sta cambiando, perché ci sono, appunto, si passerà da gennaio 2012 al sistema contributivo anche per loro, non certo 40-42 anni come per i comuni mortali. Qualche taglietto si penserà anche per gli stipendi, ma doveva essere fatto prima del nuovo anno, invece poi si è parlato di marzo, forse entro fine gennaio. Comunque, Piero Angela, visto che il tuo libro si intitola A cosa serve la politica, ce lo dici a cosa serve la politica? La politica serve certamente moltissime cose, ma dipende quale politica, come la si fa. Allora, certo, oggi c'è un forte risentimento contro l'attuale classe politica, e Rizzo sa benissimo, ci ha insegnato quali privilegi, malcostumi, arroganza, inefficienza circoli in questi ambienti. Secondo me però c'è una specie di distorsione di vita, nel senso che si pensa che la politica, anche la buona politica, possa risolvere le cose. In realtà penso, scusa che c'è un ritorno, e quindi in realtà penso che c'è un ambiente, un ambito molto più importante che rimane oscuro e dove la cattiva politica crea delle conseguenze molto gravi. Quando si parla di debito pubblico, in realtà noi abbiamo un debito pubblico molto più pesante, che però non è ben percepito. Ti dico una sola parola, sì. Il merito. Merito, credo che non esista nel vocabolario del sistema Italia. Allora, questa, diciamo, distorsione che la politica induce nella società, nello sviluppo, nelle professioni, attraverso l'appartenenza e non attraverso la capacità delle persone che valgono di affermarsi, crea un avvelenamento terribile. Questo è un costo della politica molto più grave. Faccio un esempio, io poi ci vivo quotidianamente da anni, ma la ricerca, ma è possibile che noi dobbiamo perdere i migliori nostri ricercatori che vanno via perché non possono fare ricerca qui in Italia, sia per le condizioni naturalmente di finanziamenti che ci sono, ma poi i costi di finanziamenti della ricerca non sono così bassi in Italia, c'è un ambiente che è chiuso, dove le caste sono molto presenti. Ma per esempio un'altra cosa che sono la mancanza di grandi scuole di amministrazione che preparino i grandi manager pubblici come esiste in altri paesi. Io ho vissuto 10 anni in Francia, e lì ci sono le scuole di amministrazione da cui vengono fuori non solo i politici ma anche i grandi dirigenti delle aziende pubbliche attraverso selezioni. Questo è un altro costo altissimo per la politica. I valori che vengono fuori da questi esempi sono un altro elemento tossico nella società, e tutto questo poi lo si ritrova anche nel sistema economico. La Banca Mondiale fa ogni anno delle indagini, delle statistiche sull'attrattività di un paese per gli investimenti. Certo. L'Italia è all'80° posto, e tra l'altro tra i tanti parametri che vengono indicati, come il fatto di ottenere permessi, e sappiamo in Italia per ottenere permessi che cosa bisogna fare, perché la mancanza del merito funziona non solo per gli individui ma anche per le aziende, perché allora poi questa è la base della corruzione e quindi della distorsione anche in questo caso. Rispettare i contratti, tra l'altro in questa classifica non c'è la criminalità, che ci farebbe arretrare ancora di molto. Ecco, questi secondo me sono i grandi problemi che la politica non affronta, ma anche quello dell'educazione. Ci sono dei dati impressionanti di ricerche che poi naturalmente valgono per che valgono, però sono delle indicazioni. Che nel nostro paese, che proviene da una lunga, antica, da un antico analfabetismo che certamente ci portiamo dietro, ma comunque sono dei dati che dicono che due terzi della popolazione italiana è sotto il livello di mediocrità dal punto di vista della capacità di capire un testo, per esempio. Allora ecco che qui un altro problema, la televisione, nella quale io vivo da tanto tempo, non è mai stata messa in condizione di svolgere appieno il suo servizio pubblico. Tra l'altro oggi la RAI è condizionata dalla ricerca dell'ascolto per trovare la pubblicità, per far quadrare i conti. Ci sono esempi per, secondo me, tentare di risolvere questa situazione. Ecco, io penso che siano questi molti dei guasti che la politica porta con sé, perché credo che poi ci sono persone più esperte di me, ma quello che puoi ricavare dai tagli degli stipendi, delle indennità, dei vitalizi, dal punto di vista generale è poca cosa. È molto importante invece dal punto di vista dell'immagine, come diceva Mannheimer, quella indagine che è diventata uno dei punti sensibili, tra l'altro tra i giovani, e poi sono quelli che dovranno in qualche modo essere domani i leader del nostro paese. E a questo proposito, Piero Angela, leggevo anche di una polemica delle ultime settimane, dei giovani deputati, no? Anche qui c'è una specie di guerra tra le generazioni, ma diciamo tra privilegiati rispetto alla società comune. A proposito di questa riduzione dei vitalizi, adesso si vedrà appunto poi del passaggio al contributivo anche per i parlamentari, almeno per i nuovi, per i giovani, si è levata appunto la voce dei giovani deputati, un grido di dolore che dice deve valere questa cosa dei vitalizi per tutti, non lo si può scaricare solo sulle spalle delle nuove generazioni di parlamentari, ma deve riguardare anche chi per anzianità di servizio potrà godrà ancora dei vecchi privilegi. Quindi, e poi naturalmente c'è anche chi ha contestato dei vecchi la possibilità di ritoccare i vitalizi. Vabbè, diceva prima Sergio Rizzo che insomma una classe dirigente in generale definita mediocrasi. Io vorrei dare un altro dato, Sergio, prima di passare poi alle regioni, come avevi prima accennato tu. È vero che ci sono dei parlamentari che sono stati parlamentari per un giorno, mi pare che siano pochi, però percepiscono 3.000 euro al mese di vitalizio per essere stati parlamentari un giorno, no? Giusto per... Sergio. Ce n'è uno. Ah, uno solo? Mi pare di aver letto tre. Credo che sia anche deceduto. Ah, quindi. Adesso però la sua pensione, il suo vitalizio è, diciamo, passare in famiglia. È stato reversato, come si dice, ai parenti. Ai superstiti, esatto. Poi tu dicevi nel tuo libro, i licenziati padri eterni, i presidenti regionali, tra i vari dati, che continuano a prendere come tre governatori statunitensi. Se pensiamo che un consigliere regionale della Lombardia ha una retribuzione netta di circa 150.000 euro l'anno, tutto compreso naturalmente, ed è una cifra superiore allo stipendio del governatore del Maine, del Colorado e dell'Arkansas. Insieme? Sì. Non soltanto, ma per dirne una, il presidente della regione Molise, che guadagna di meno di un consigliere generale della Lombardia, diciamo soltanto 144.000 euro netti l'anno, però è una retribuzione nettamente superiore a quella del governatore della California, che ha una popolazione 100 volte superiore a quella del Molise. Quindi già da questo si capisce che c'è qualcosa che non va. Non so, il presidente della provincia di Bolzano ha uno stipendio che è di 2.000 euro al mese superiore a quello di Barack Obama. Quindi diciamo c'è qualcosa che non va. È possibile, però, ripeto, che, è possibile che sia una volta più difficile. Piero Angela, la politica, la cattiva politica, cioè gli effetti della cattiva politica sono molto peggiori molto più nefasti anche dal punto di vista economico che non nei semplici sprechi dovuti a stipendi eccessivi o a privilegi ingiustificati, no? Giustamente Angela citava la vicenda della ricerca, l'impatto terrificante che ha sulla nostra economia, ma agli investimenti esteri, pensiamo alla giustizia civile, cioè il fatto di non essere stati capaci di riformare la giustizia civile, nonostante siano anni che si parla di una riforma della giustizia, no, in Italia. Ebbene, questo ha comportato intanto che l'attrattività degli investimenti esteri nel nostro paese è ancora inferiore, ma soprattutto una inefficienza mostruosa di tutto il sistema economico che poi si riflette in una crescita economica irrilevante o comunque molto inferiore rispetto agli altri paesi, no? Così come la sopravvivenza di tutte queste corporazioni, di questi ordini professionali chiusi che non permettono di libertà d'accesso ai giovani nelle professioni. Ma intendi anche i giornalisti? Sergio, intendi anche i giornalisti? Dubbio. Io sono del parere che l'ordine dei giornalisti andrebbe chiuso, andrebbe abolito l'ordine dei giornalisti, perché noi abbiamo già un articolo della Costituzione che garantisce la libertà di stampa e di espressione, non capisco perché ci debba essere. Tra l'altro un ordine è un sindacato, perché fanno due cose abbastanza sovrapponibili, no? Michele Ainis, invece volevo chiederti, molti ascoltatori e ascoltatrici chiedono, e anche questo è un tema molto dibattuto negli ultimi tempi, ma la riforma per la riduzione del numero dei parlamentari, cioè è una cosa che si può fare in tempi brevi, al di là della volontà o non volontà, vero, di chi la dovrebbe fare, richiede tutti dei passaggi complicati? Ma è una riforma costituzionale, quindi segue la procedura di tutte le leggi di revisione costituzionale, come quella che è stata approvata sia alla Camera che al Senato in prima battuta sul pareggio di bilancio in Costituzione. Questa poi è una cosa su cui, almeno a chiacchiere, tutti i partiti si dichiarano d'accordo, salvo a fare una gara a chi la spara più grossa, togliamone 500, togliamone 1000, non so, alla fine ci rimane un unico parlamentare. Tu fai una previsione, puoi fare una previsione, o dici sarà tutto imprevedibile, se mai si farà, Michele? Ma noi viviamo questa curiosa congiuntura, perché c'è un governo debole, nel senso che non ha una base elettorale, e però è al contempo forte, perché la fiducia al governo Monti ha realizzato un record nella storia repubblicana. Bisogna tornare all'Assemblea Costituente per ritrovare quel consenso così vasto questo consenso potrebbe, almeno in teoria, favorire una stagione di riforme e dare anche un senso al lavoro parlamentare, posto che la politica economica che è centrale la sta dirigendo il governo. Temo però che non ci si riuscirà e che bisognerà aspettare ancora un'altra legislatura per avviare delle riforme. Io vendo promesse di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Vi fidate dei falsari, non incolpate me se ci gettate dei denari. Non ho colpa se siete schiavi di una tombola stracolma di tesori che distribuisce a bande. Siamo sempre qui negli ultimi minuti di questa puntata speciale, e volevo leggere in particolare a Piero Angela alcuni degli interventi dell'ascoltatrice e degli ascoltatori sulla pagina Facebook della trasmissione. Vi ricordo, dovete cercare Roberta Giordano, non ci sono più le mezze stagioni. Per esempio Marco scrive: la politica dovrebbe essere servizio, in quanto tale dovrebbe essere giustamente remunerato un politico, però nel nostro paese si è andato molto oltre il lecito, stipendi assurdamente elevati e benefici gratuito a basso costo durante l'attività, indipendentemente da quanto si è prodotto, seguiti da pensioni e vitalizi d'oro. Poi Stefano dice: la politica deve ridare agli italiani credibilità, e questa non si ottiene presentandosi alle classiche trasmissioni TV. TV. Emilio, i compensi dei nostri politici devono essere ridimensionati senza se e senza ma, portati per esempio alla media di quelli europei. Ciò fatto, bisogna far luce su quanto ci costano gli altri operatori della cosa pubblica, come si diceva anche, come governatori delle regioni, sindaci, responsabili di uffici pubblici, eccetera. Scrive ancora Emilio, recentemente è saputo che responsabili dei lavori pubblici comunali percepiscono indennità proporzionali alla spesa dei lavori eseguiti. Questa cosa è talmente assurda che non so nemmeno se è vera. Poi ci dirà magari Michele Ainis o Sergio Rizzo. Francesco, ma perché ci meravigliamo o protestiamo solo adesso? Lo sapevamo da anni che i nostri parlamentari percepivano più o meno sui 14.000 euro netti al mese più benefit. Abbiamo chiuso per troppo tempo gli occhi, ma non è mai troppo tardi. Scrive Gianni. Si poteva fare di più rispetto appunto agli ultimi provvedimenti che dovrebbero essere in cantiere. Non capisco perché un comune mortale debba lavorare oltre 40 anni per avere la pensione, mentre a questi sfaticati bastano 5 anni. Non è logico e non è corretto. Sabrina, si poteva fare di più e bisogna anche tagliare le province, dimezzare il numero di parlamentari, nella prossima era geologica naturalmente. Massimiliano, bisogna ridurre i parlamentari, i loro stipendi, i privilegi, far pagare a chi ha più e non sempre al popolino, aumentare le pensioni più basse e ridurre la pressione fiscale. Enrica, una legislatura dovrebbe essere circa 5 anni, ho sentito che dovrebbero percepire circa 3.000 euro alla faccia, noi chiedono 43 anni compatibili con l'età per una miserrima pensione in confronto a loro, non chiamiamole pensioni ma fa più chic chiamarli vitalizi. E poi Riccardo dice, ma si faranno poi questi tagli? Ho i miei legittimi dubbi. Come confortare Piero Angela, questi ascoltatrici, questi ascoltatori? Tutte queste cose che vengono dette in realtà dovrebbero essere i politici a fare, perché tagliare, riformare, controllare, eccetera, non è che possono fare i cittadini, lo devono fare attraverso le leggi dei politici. Questo è un po' il circolo vizioso. Allora, vogliamo dare una parola di speranza. Io ho l'impressione, spero di non sbagliarmi, che se questo governo va avanti per un po' di tempo, e credo che nessuno abbia voglia di buttarlo giù per le conseguenze che possa portare. Gli italiani cominceranno a capire che si può fare politica in un modo diverso. Ecco, questo che credo che sia l'unica, diciamo, salvagente al quale ci possiamo attaccare, e che questo rimanga in qualche modo dentro. Cioè, si può fare la politica, a parte il fatto che si sono tagliati lo stipendio, Monti addirittura lo fa gratis, questo è il suo lavoro. Però si vede che la competenza, l'aplomb, lo stile è cambiato completamente. È vero che questo è un governo che emana delle responsabilità elettorali, però comunque non è escluso che poi queste persone si presentino alle elezioni. Si hanno fatto bene, soprattutto hanno dato alla gente più fiducia, perché questa è la parola magica per la politica, dare fiducia ai cittadini. E questo governo, malgrado tutte le polemiche, ovviamente, perché quando si toccano le pensioni, quando si toccano gli stipendi, ognuno strilla. Però io spero che dia l'idea che si può fare politica in modo diverso. Sergio Rizzo, tanto per fare ancora un po' più di informazione e anche suscitare un po' più di indignazione, ma abbiamo detto, insomma, la questione è più complessa, è più una questione di cultura politica nel nostro paese, di sistema, che non semplicemente rifarsi appunto al vitalizio, all'indennità, al privilegio, anche se non sono poca cosa. Di una ricerca recente di Confcommercio, ecco, se non sbaglio, sì, Confcommercio, faceva un po' il calcolo di quanto i costi della politica gravino su ogni famiglia. Il conto sarebbe di 350 euro a famiglia, e nell'arco, diciamo, di una vita media calcolata con l'aspettativa di vita italiana sugli 80 anni, 12.000 euro a testa costa la politica. Sarebbe interessante capire come hanno fatto questo conto. Che non risulta nei vostri libri, nel tuo libro, ma Sergio. No, ma questi sono conti che lasciano il tempo che trovano. Nessuno è in grado di dire esattamente quanto, con esattezza, insomma, con precisione, quanto ogni famiglia, ogni persona debba sborsare per mantenere la politica. Ci sono tanti aspetti che non... Io, diciamo, sarei più portato a dare un giudizio di carattere generale sulla politica. Non c'è dubbio che noi siamo un paese nel quale, tra l'altro, l'Italia, non è vero che c'è una... un sentimento di, come dire, di antipolitica, come viene chiamato adesso, usando questo termine molto in voga, no? Così diffuso. Ci sono ricerche, ce n'è una in particolare fatta, pubblicata dalla LUIS qualche anno fa, in cui si dimostra che nonostante l'avversione crescente e l'insofferenza crescente nei confronti di certi comportamenti della cattiva politica, gli italiani sono più interessati alla politica di prima, dei tedeschi o degli inglesi o di altre popolazioni, diciamo, di paesi avanzatissimi. Forse perché li fa tribolare di più, è possibile, Sergio? No, perché noi comunque sia siamo un paese dove la passione civile è un elemento fondante della socialità. Questo è bello. E questo è assolutamente incontestabile. E se c'è un fenomeno, come dire, avversione per una certa politica, è perché la politica è cattiva, non perché come dire ci sia un qualunquismo, come dire, galoppante, così come ci viene raccontato da molti politici che utilizzano questo concetto come foglia di fico, poi in realtà no. Quindi bisognerebbe semplicemente, e qui ancora una volta ha ragione Piero Angela, no? Cioè il compito di un governo come questo dovrebbe essere quello di riconciliare un pochino i cittadini con la politica. E aggiungo una cosa, dovrebbe essere responsabilità degli attuali partiti facilitare, favorire questo fenomeno di ricongiungimento, perché hanno tutto l'interesse. Quindi diventare oggi più sobri, no? Cercare di calarsi in una realtà, perché talvolta sembra che vivano su Marte queste persone, oggettivamente, no? Cercare di capire, no? E di come dire, in qualche modo rendersi conto della situazione di questo paese, e ne avrebbero tutto da guadagnare, no? Ne avrebbero tutto da guadagnare, anche nel ristabilire dei rapporti, diciamo, di fiducia, di civiltà, dicevano, di stima. Ma anche di civiltà nei rapporti reciproci. Quante trasmissioni vediamo dove, diciamo, ci sono scambi di battute non proprio civili, no? Quante sedute parlamentari assistiamo in cui i commessi devono correre a dividere questi schieramenti opposti che vengono alle mani, no? E abbiamo avuto un esempio anche, mi pare, fra ieri, nei giorni scorsi di metà dicembre, quando si stava votando la fiducia alla manovra del governo Monti, no? Quando a un certo punto sono comparsi dei cartelli, la Lega, la bagarre, eccetera. Sono volate delle parole grosse nei confronti del Presidente del Senato e del Presidente della Camera, insomma, quindi... Erano meglio le lacrime della Fornero, diciamo, almeno un po' più. A me le lacrime della Fornero, devo dire, in quello sono abbastanza d'accordo con Roberto Benigni, no? Effettivamente lì c'è stato un segnale di quantomeno di umanità, no? Sì, sono d'accordo. Che non guasta, insomma. La politica deve riconquistare un po' la gente, devono trovare un modo per riportare la politica ad essere quello che era, che è stato sempre in Italia, no? Certo. Michele Ainis, volevo chiederti, in questi 30 secondi che mancano, sarà in grado di autoriformarsi questa politica? Possiamo sperare per questo anno nuovo? Può essere questo, diciamo, no? Si fanno sempre i buoni propositi quando inizia un nuovo anno. Che dici, Michele? Diciamo 22 che secondi. Sotto una pressione molto forte e si sta un po' autoriformando per quello che riguarda gli emolumenti e le indennità. Dopodiché credo anch'io che siamo in una fase della nostra vita pubblica in cui c'è un ritorno di interesse verso la politica. È come se ci fossimo un po', non siamo fatto la bella addormentata durante il decennio passato. Ecco, speriamo quindi che ci sia un risveglio nostro nella società civile e in particolare della politica, che sia in grado veramente, come si diceva, di almeno accorciare questa distanza tra vita reale e per l'appunto politica. Io ringrazio moltissimo Renato Mannheimer, Cesare Salvi, Sergio Rizzo, Michele Ainis, Piero Angela, con un buon auspicio, insomma, per il nuovo anno. Le cose le abbiamo dette, se ne potrebbero dire tante di più, stiamo a vedere. Grazie a tutti, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.